I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Da oggi per i furbetti del cartellino non sarà più vita facile, almeno così promette il decreto attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione che è in vigore proprio da stamattina. I casi all'onore delle cronache sono numerosi e se ne verificano tutti i giorni. L'ultimo è il furbetto che timbra e se ne va con un cartone in testa per non essere ripreso dalle telecamere a circuito chiuso. Finora i licenziamenti per assenteismo sono stati limitati a poche decine di casi e per cambiare registro il nuovo decreto Madia punta su due strumenti, il calendario ultra rapido e sanzioni più pesanti anche per i dirigenti che fanno finta di niente. Quando un assenteista è colto sul fatto oppure viene filmato mentre timbra l'entrata e poi salta il lavoro, dovrà scattare un meccanismo che porta alla sospensione in 48 ore e al contraddittorio entro 15 giorni per arrivare appunto al licenziamento. Nel complesso la procedura dovrebbe durare un mese, non di più. È previsto anche il danno erariale e di immagine se la rilevanza mediatica del fatto è ampia. Entro 15 giorni dal misfatto, l'amministrazione deve segnalare il caso alla magistratura e alla Corte dei Conti, che può disporre le trattenute sullo stipendio a partire da un minimo di 6 mensilità. Il decreto punta anche a responsabilizzare i dirigenti, prevedendo sanzioni fino al licenziamento in caso di mancata attivazione tempestiva del procedimento disciplinare. L'inazione del dirigente fa partire anche la segnalazione alla Procura della Repubblica, appunto per valutare il reato di omissione d'atti d'ufficio. Sulla carta, insomma, è un provvedimento severo. Speriamo però che non basti camuffarsi con un cartone in testa per evitare le sanzioni. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. L'Irlanda torna di nuovo nei panni della celebre tigre celtica, almeno stando ai dati sulla crescita del PIL. Sentite cosa ha comunicato ieri l'Istituto di Statistica di Dublino. Ha detto che il prodotto interno lordo dell'Irlanda nel 2015 è cresciuto del 26,3%, in precedenza era stimato in un più 7,8%, che sarebbe già stata di per sé un'ottima performance. Le statistiche possono essere strumentalizzate, ma un caso così eclatante merita qualche parola di riflessione. Nel primo trimestre del 2016 il PIL di Dublino è calato del 2,6% e la crescita su base annua nel primo trimestre è stata del 2,1%. Quindi, ma che succede in questo dedalo di numeri? Succede che l'Irlanda ha beneficiato del trasferimento di sede di molte multinazionali attratte dalla tassazione al 12,5% sulle società, che rende il territorio irlandese tra i più fiscalmente attrattivi. Pesa anche il fatto che sono aumentati il numero di aerei importati con contratti di leasing e questo può ben definirsi l'effetto Ryanair sul PIL. Il balzo, che va detto è un una tantum, porterà il rapporto con il debito al di sotto della soglia super virtuosa dell'80% rispetto a un ben più preoccupante 120% che era lo standard per Dublino. È comunque un fuoco di paglia statistico, non c'è che dire, ma un segnale da considerare rimane. Dopo Brexit, la possibilità che molte delle società inglesi trasferiscano le loro sedi in Irlanda non è solo una voce, e Londra sicuramente dovrà tenerne conto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.